24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. So anch'io che c'è tanta gente che preferisce un passerotto in mano piuttosto che il tacchino sul tetto. E buongiorno, sono le 6:32 minuti, anche oggi siamo qua in diretta fino alle 9 con la nostra Miriam Lucchetti in redazione, Peter Bescapè, il nostro alpino in regia. E tutti voi ovviamente, se volete, al 349-238-6666, questo è il numero per i vostri messaggi. E c'è anche il consiglio, come sempre, del Presidente del Consiglio. È sempre il Presidente del Consiglio, quindi è sempre il consiglione. But please relax. In questa campagna elettorale, dove oggi vedremo forse il clou del clou del clou delle apparizioni televisive, Berlusconi da Santoro, ma ne parleremo tra poco. Intanto apriamo, vogliamo aprire il nostro bar? Chi ci offre il caffè? Il caffè volentieri a tutti quanti. Come sempre, a tutti quanti. Da Nicole Minetti, il nostro bar condicio è aperto. Paolo Del Debbio, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno e ben ritrovato. Eccoci qua, le presento e anche un'altra volta siete stati insieme questa mattina. Vladimir Luxuria, buongiorno e ben buongiorno. Ritrovata. Eccoci. Bar condicio, questo è il nome del nostro bar fino alle 7. Quindi avete già capito come funziona, Del Debbio? Se deve dire qualcosa. No, non ho capito ancora niente, ma va bene. Io ho capito che è un disastro, a parte che allora tra poco Berlusconi è venuto anche da lei un paio di giorni fa, no? Sì, mattino, sì. E adesso facciamo sentire una cosa. Io però devo dire, Del Debbio, ieri era Porta a Porta, oggi andrà da Santoro, stamattina ho acceso il microonde e mi è uscito Berlusconi addirittura a far colazione così dallo schermo. L'ha mangiato? No per carità, vabbè. Però sentiamolo Berlusconi da Del Debbio due giorni fa, che ha detto che praticamente fare il Presidente del Consiglio è una tragedia. Questi studi qui li conosce, no? Direi di sì. C'è già stato qualche volta. Sì, qui facevo di tutto, facevo io il regista, scrivevo i testi, facevo il casting, controllavo il trucco. Insomma, la mia esuberante personalità trovava modo di affermarsi. Senta, ma era più divertente questo o quello che fa ora? Beh, quello che fa ora è un dramma, una tragedia, perché il Presidente del Consiglio non conta nulla in Italia, non ha nessun potere, l'unico potere che ha... In questi studi contava di più lei. Beh, io ero il dominus assoluto. Del Debbio, ma come non conta nulla? Perché ci vuole tornare? No, a dire la verità non si candida a Premier, però non conta nulla fare il Presidente del Consiglio. Ha spiegato, ha detto che ci sono... Beh, del resto... Ora, ma che non conta nulla, magari gli altri non l'hanno detto, però che andrebbe modificata l'assetto, no, tra Parlamento e Presidenza del Consiglio, questo l'hanno detto in tanti, insomma, le riforme le volevano fare quasi tutti, no? Per dare più poteri e però bilanciarli con più poteri del Parlamento, togliere il bicameralismo, di fare tutte le stesse cose alla Camera e al Senato, insomma è roba di cui ormai la sa anche, pietre, perché se ne parla da quanto? Da 25 anni in Italia circa, no? Da Bozzi, quindi anche un po' prima. Però ha detto la mia esuberante personalità qui, veniva fuori, faceva tutto, il trucco, insomma, perché era la sua azienda, Berlusconi, che gli pareva, io non c'ero ancora a quel tempo lì. Quello è vero. Vladimir Luxuria, che effetto fa vedere in TV, se li vede, sì, tutte queste trasmissioni? Stasera poi ci sarà la trasmissione, quella con la T maiuscola, no? Berlusconi. Stasera fa del male, Santoro. Vladimir, le vede queste puntate, queste trasmissioni? Ci capisce qualcosa? Piacciono, non piacciono? Lei l'ha visto al microonde, io fra un po' accendo la lavatrice, sono sicuro che qualsiasi programma che metto vedrò la sua faccia rotare nell'oblò. Temo che oggi, non so quanto durerà Berlusconi. Allora, ci sono le scommesse, i bookmakers di Stanley Bet danno a 5 il fatto che Berlusconi se ne vada e abbandoni lo studio. Aldo Grasso invece dà come uno dai 10 consigli oggi sul Corriere, uno dei quali è non abbandonare lo studio per nessun motivo. Sei andato lì e quindi accetti questa battaglia. Che farà Vladimir Luxuria secondo lei? Secondo me non resisterà molto, forse è l'unica poltrona che potrebbe abbandonare per davvero questa volta. Che dire, insomma, Berlusconi ha la tendenza al masochismo, nel senso che dice che fare il Presidente del Consiglio è una tragedia, intanto, nonostante avesse deciso a un certo punto, avesse annunciato che non si sarebbe ritirato, eccolo lì, che invece di andare a visitare le varie case che non ha mai avuto il piacere di poterci entrare, come ha detto una volta, o le varie barche che per mancanza di tempo non ha potuto vedere, eccolo qua che ritorna in politica, mentre tutti avremmo voluto vedere un Berlusconi, anche proprio per la sua sì. salute, che potesse dedicarsi ad altro. Ma l'ha detto da Lilli Gruber, sono obbligato a vincere, mi ero ritirato dalla politica ma sono obbligato a tornare. Quindi tra gli alimenti di Veronica Lario e il ritorno in politica, mi sa che sarà difficile che possa godersi appieno la vita. Che elemento quello degli alimenti, molto molto delicato. Noi tra l'altro alle 8:15 avremo Livia Pomodoro, che è presidente del Tribunale di Milano, che ha tuonato insomma contro le giudichesse comuniste e femministe di Berlusconi. Del Debbio, questa delle giudichesse femministe e comuniste insomma, è un po' un leitmotiv, però l'hanno toccato lì nei portafogli e mica male, 100.000 euro al giorno. Insomma, 100.000 euro al giorno, non so se avete visto. Abbastanza. Il tizietto quando ha detto come li spende, no, eccetera. 100.000 euro al giorno sono abbastanza. Allora io entrare lì dentro non lo so, perché lì è un cespuglio dove non ci voglio entrare, francamente. Per carità. Allora, lo vogliamo sentire l'ultima apparizione di Berlusconi da Santoro? Era Raggio Verde, credo, la famosa telefonata, apparizione telefonica. Noi continueremo a non intervenire nelle trasmissioni della RAI finché non ci saranno delle garanzie che ci garantiranno di non dover cadere in trasmissioni trappola come quella. Allora mi dispiace, io chiudo, chiedo alla regia. No, mi dispiace. Chiudo il collegamento telefonico, mi dispiace. Non si può accettare questa sua posizione. Allora, se lei non rimuove il vincolo, lei non può parlare stasera. Santoro, lei è un dipendente del servizio pubblico. D'accordo. Si contenga. Io sono un dipendente del servizio pubblico, non sono un suo dipendente, Berlusconi. Finì così, insomma, e poi del debito. Quando eravamo giovani, no? Sì, abbastanza, qualche anno fa. Santoro era in Rai, lei è un dipendente del servizio pubblico. Il cuoco Michele, sì. Non tu ricorda? Sì, come no, il cuoco Michele. Però, no, secondo me stasera non finirà così. Stasera Berlusconi si è accettato di star lì, sì, con il suo amico Travaglio, come va in giro dicendo da un po' di tempo, vuol dire che accetterà questa. Ma la vera notizia è sulla composizione delle liste. Io vorrei dare una notizia, mi ha sconvolto. Stamattina l'ho letta. Mario Monti candida Laminetti. Ma no. Sì, Vladimir Luxuria. Candida, l'ho letta così. Candida Laminetti. Sì, candida Laminetti. Che viene candidato al PD. Ce l'ho scritto qui. Annalisa Minetti, mannaggia, porca miseria, ma no, Annalisa Minetti che ha vinto Sanremo, ha vinto alle Paralimpiadi. No, è una che fa l'odontotecnica. Ma pensate, avevo la notizia che mi sembrava la notizia del secolo, e invece Annalisa Minetti, però anche Monti ha la sua Minetti a questo punto. Anche Monti si sta, diciamo, aggiornando, prima o poi direi che compare anche un calciatore. Quelli pare Gattuso e Maldini, pare che stiano dalla parte di Berlusconi. Con Monti. Anzi, pare che la campionessa Vezzali vada con Monti. E come no? Certo. Qualche sportiva ce l'ha messa. Che pare, oggi fa un'intervista a Repubblica per parlare del celebre da lei presidente Berlusconi, mi farei toccare. Qua, avere in mano il fioretto, toccare nel fioretto vuol dire no. E lei dice, ma basta questa cosa, vuol dire che se fossimo stati in una competizione sportiva per il ruolo istituzionale non mi sarei impegnata, col fioretto mi sarei fatta toccare da Berlusconi senza impegnarmi. Sì, vabbè. Tra l'altro ha detto, è straordinario, già è calata perfettamente nel ruolo di parlamentare. E su questo ha detto, ma come faccio a fare le Olimpiadi prossime? Ma durante la pausa delle attività parlamentari mi allenerò a Roma. Cioè, tanto come dire, è un lavoro. Tanto che Vladimir Luxuria, che lei è stato in Parlamento, ma chi se ne frega, tanto che si fa in Parlamento? Uno sta due ore, pigia un bottone e poi va a fare due allenamenti, no? È ma così. Vabbè, credo che lei sappia che per essere, io credo che lei si sia dedicata molto alle prove per diventare poi campionessa, quindi credo che sia un'affermazione priva di fondamento, ecco come No, comunque comunque questa posizione delle liste, io pensavo di avere la notizia del secolo, insomma, mi avete bruciato così, invece Annalisa, non ho letto Minetti, non ho capito più niente. E quindi farà l'inno di Monti. Può essere, può Forza essere, Monti. Può essere, Forza Monti. Noi siamo pochissimi per ora, insomma. Tra l'altro com'è il testo? Come lo farebbe il testo del Forza Monti, noi siamo pochissimi, saremo tantissimi, speriamo in bene, perché Monti, diciamo, va un po' così. Manca la rima baciata finale, devo dire. Andava bene, mi ricordavo qualcosa, un inno già sentito appunto, all'inizio, appunto. Però mancava la rima baciata. E vabbè, finale. Lascia stare, ora, ha detto che lo tocca, non che lo bacia. Sì, comunque anche la Minetti è un po' anche un atleta, anche lei, perché ultimamente la si ricorda di più che per le canzoni, anche per il fatto che lei ha corso durante proprio le Paralimpiadi. E come no, ha vinto una medaglia, ha vinto a Sanremo. È pieno di campionesse, Monti. È nata Miss Italia, credo che abbia vinto, credo Miss Italia. Ma poi anche Albertini è un gran campione, fa un'ora al giorno di ginnastica. Ah sì, me lo ricordo che correva in mutande, è vero. Quale Albertini? Quale Albertini? Perché c'è Albertini il calciatore, quando Albertini si capisce Gabriele, più. Non si capisce più niente, è un po' come le liste, la composizione delle liste, non si capisce più niente, insomma, praticamente. Beh, il PD però le ha fatte, il PD le ha fatte, cioè ha già dato tutto. Oggi il Fatto Quotidiano tuona ancora in prima pagina, ce l'ho qui, su Vladimiro Crisafulli, il senatore di... me lo ricordo. Ah, ecco, perfetto, cioè è stato in Parlamento, siete stati vicini in Parlamento, no? E come no? Sì. Oggi il Fatto pubblica tutto un rapporto dei carabinieri quando incontrò un boss mafioso, Vladimiro Crisafulli. Non si può non notarlo, perché diciamo ha una stazza abbastanza, ecco. E come si comportava? Si comportava con fare circospetto, con fare sospetto, Vladimiro? Con fare mafioso? Sì. No, questo no, non lo diciamo. Si presentava con la coppola, Vladimiro Crisafulli. No, me lo ricordo molto silenzioso. Aveva anche quasi omertoso. Se lo incontra in gloria. Silenzioso. Sono problemi. Era uno sempre silenzioso, Vladimiro Crisafulli lì. Me lo fa parlare in gloria. Quando lo senti parlare per la prima volta, sentendo un po' anche il suo italiano, ho capito perché era uno popolo qua. No, ma Vladimiro Crisafulli, io una volta l'ho invitato, adesso stiamo ricercando perché pare che sia un po' costipato in questi giorni, non voglio parlare. Una volta l'abbiamo invitato, è una persona, cioè è arrivato a interpretare in un film il ruolo del boss mafioso, cioè per prendere in giro questo. No, ma è vero, è tutta una cosa vera, cioè ha usato il metodo Stanislavski, è calato nella parte. Insomma, no, ovviamente si sta un pochino scherzando, perché poi l'onorevole Crisafulli ci ascolterà, la coppola, le cose, insomma, mi salvi il traffico, per cortesia. 24 mattino. Ma come mai tocca sempre far ascoltarsi i quattro papponi che li metterei in galera appena dicono che se vogliono presentare le elezioni? Saranno dei delinquenti potenziali. Ancora siamo rimasti al 1700, quando, parafrasando Alberto Sordi nel Marchese del Grillo, che diceva: oh, io so io e voi non siete un cazzo. Ancora stiamo lì. Ciao bello. Caro Milan, vorrei proprio sapere che cosa ha da lamentarsi Berlusconi circa le cotte che frequenta. E le cotte vogliono i soldi, vero? Sono Patrizia di Cento. Sono andata in banca due giorni fa perché mi scadeva un bot. La banca ha detto: ma per questo bot ti danno un rendimento troppo basso, perché non compri il nostro prodotto deposito in time? Ecco come le banche ci ringraziano, ringraziano lo Stato, propongono il loro prodotto. Vorrei sapere chi è quel pollo che crede all'idea che terremo il 75% delle tasse in Lombardia. Gente, svegliatevi, che siamo nella preistoria, svegliatevi. il debito pubblico è di tutti noi. Di chi l'ha creato il debito pubblico? Non di sicuro mio, che lavoro dalla mattina alla sera e pago tutte le mie tasse. Il debito pubblico deve pagarlo chi l'ha creato? I politici, questi bastardi. Milan, ti prego, di qualcosa ai tuoi colleghi cagnolini che fanno la fila per intervistare Berlusconi. Di rispondergli quando lui dice che il suo è l'unico partito che ha a cuore le famiglie. Sì, ma quelle di Mubarak e delle Olgettine. E vabbè, questa è la nostra segreteria telefonica, come sapete tutti i giorni. Il riassunto della giornata politica di ieri è che Berlusconi ha proposto zero tasse per le imprese che assumono per i primi 4-5 anni. Monti ha detto alla sinistra e a Bersani: siete molto di sinistra, e quindi ha litigato un po' con Bersani. È stato accusato di essere da Bersani la stampella di Berlusconi. Insomma, del debito ne vedremo ancora delle belle o delle brutte. Siamo appena all'inizio, e quindi è partita calda questa campagna elettorale. Però siccome siamo con Paolo Del Debbio e Vladimir Luxuria, voglio farvi ascoltare invece una vicenda diversa di cui parlano un po' i giornali. Corrado Guzzanti, no? Avete presente lo straordinario comico, eccetera. Sentite quando interpretava padre Florestano Pizarro in un spettacolo chiamato Recital. Perché è successa una cosa su cui vi vorrò dare un parere. No, perché comunque voi continuate a vietare l'uso del preservativo. Sì. Cioè, preferite che si muoia di AIDS piuttosto che permettere l'uso di un anticoncezionale. Sì. Che cos'è? Che una vita che deve ancora nascere vale di più di una che c'è già? Esatto. Guarda, a noi ci interessa proprio la vita, dal concepimento alla nascita. Già un quarto d'ora dopo non gliene frega più niente a nessuno. E vabbè, padre Florestano Pizarro, per queste parole e altre parole sull'aborto, la legge 194, l'associazione AIART, cioè l'associazione telespettatori cattolici, lo ha denunciato per aver offeso con battute da caserma il sentimento religioso degli italiani, vomitando insulti e falsità per oltre un'ora di spettacolo. Denuncia, e quindi immagino richiesta di danni. Allora è satira? Non è satira? Il limite della satira del debito? No, ma è satira, sì, ma è fatto al buon senso, non occorre mica essere giudici. Cioè, se ci fosse un'offesa a persone in senso letterale, volgare, ripetuto, eccetera, ma quando si fa satira, quando uno dice ci interessa la vita. Ma sa poi cosa ha detto più avanti? Perché poi sull'aborto ha detto un'altra cosa: ha detto a ste ragazze che abortiscono gli elevamo i punti della patente, se non porti avanti la gravidanza, non porti manco la macchina. Sì, è satira, è talmente inverosimile, ma certo, è assurdo, no? Che uno ride. Mi sembra che, cioè, a volte ho l'impressione che più che il contenuto, no? Uno sfrutta un'occasione per la visibilità. Per la visibilità. No? Il problema è che qua c'è una, adesso ci sarà una causa, immagino, Vladimir Luxuria. Certo, perché nei tribunali italiani ci sono poche cause pendenti, quindi mi sembra giusto farne anche un'altra. Vladimir Luxuria è un tema in realtà delicato, cioè tocca corde delicate, sicuramente, come la satira spesso fa, non è che la satira deve essere comoda sempre, ma anche scomoda. Però come giudicare questa cosa? Io non so se ci sarà un processo a Corrado Guzzanti. Intanto c'è un processo nei confronti dell'Italia che ha fatto la Corte Europea dei Diritti Umani proprio sulla legge sulla fecondazione medicalmente assistita, come è stata fatta in Italia. Mm. Quindi se la può criticare la Corte Europea per i Diritti Umani, non vedo perché un comico che fa satira non possa farlo. Beh, però ci sarà una causa civile, immagino, chiederanno i dati. È stato trascinato in tribunale, cioè è stato denunciato, poi bisogna vedere poi come è anche archiviata. Sì, sì, sì, certo, bisogna andare a vedere come va a finire. Viene archiviata per inconsistenza, cioè questo. Sì. Non so se verrà accolto il ricorso, credo sia stato fatto un ricorso che non so se verrà accolto. Comunque io credo che, insomma, se anche interroghiamo i cattolici e gli chiediamo: secondo te è giusto che la Chiesa condanni l'uso del preservativo? Io sono sicuro che i cattolici in linea la penserebbero come Corrado Guzzanti, ecco. Quindi qui non è che si sta scherzando con i santi, si stanno criticando anche attraverso la diciamo così, la forma della satira, alcune prese di posizioni sinceramente discutibili, che sinceramente possono essere criticate, perché se non si può criticare neanche certe prese di posizioni su certi temi, anche attraverso la satira diventerebbe teocrazia televisiva la nostra. Sì, bisogna capire poi come andrà, perché effettivamente anche sulla rete, la rete in queste cose subito si è mobilitata per Guzzanti a chiedere di ritirare la querela, e tra l'altro oltre alla querela c'è anche la richiesta di sospensione del programma in qualche modo, sì, no, della diffusione. Di ritiro Guzzanti a Montecassino. Sì. questo non lo so, forse nei conventi ci stanno, tante volte me lo chiedo, come ci sta per esempio Lusi in convento, ve lo ricordate? Questo Lusi? Bisognerebbe lei andasse a trovarlo. Ma mica me lo fanno incontrare, gli arresti domiciliari. Ci mandi un parlamentare. Infatti, ogni tanto vanno, no? Le prerogative dei parlamentari, potranno entrare in convento come in un carcere per Chi lo sa? Vorrebbe farsi parlamentare per entrare in carcere? No, perché? Di sicuro c'è meno sovraffollamento del monastero rispetto alle carceri. Questo sì, insomma, siamo stati condannati, e lo sappiamo, per una brutta vicenda. D'altronde è così. Vi voglio anche fare un commento su un'altra notizia che c'è sui giornali. Ve lo ricordate Cesare Battisti? Come dimenticarlo? Cesare Battisti in Brasile, tranquillo, sulla spiaggetta, dopo avere 4 ergastoli sul groppone qui in Italia. Cesare Battisti è stato assunto, verrà assunto dal maggiore sindacato, no, dal maggiore sindacato del Brasile, perché è rimasto senza lavoro, è rimasto non sa come tirare avanti. E quindi il sindacato di Lula, così titola Repubblica, il sindacato di Lula assume Battisti. Bisogna un po' che prima o poi in Brasile andiamo a dirgli qualche cosina su questa vicenda di Cesare Battisti, o no? Vladimir Luxuria, che ne pensa di questa storia di Battisti, che è un po' caduta nel dimenticatoio perché è là, però quelli che hanno subito le vittime degli assassini di Battisti, o commissionati o eseguiti da lui secondo sentenze italiane, invece non dimenticano. Sì, che se lui fosse davvero così convinto di non avere tutte queste responsabilità, dovrebbe prendere il primo aereo dal Brasile in Italia, venire in Italia e farsi processare qui in Italia. C'è troppa gente che vuole essere libera dai processi, ecco. Battisti dovrebbe dare l'esempio. L'ha già detto più volte, com'è Del Debbio non crede alla giustizia italiana, non crede nei giudici italiani, sentenze. Ma c'è anche chi non crede a questo mondo. Certo, Battisti non potrà... A me mi dispiace per lui, anch'io posso non credere in tante cose, però la mattina mi alzo, faccio vedo di rispettare le leggi, insomma faccio tante cosine che si imparano da adolescenti. Ho capito, appunto, da adolescente ha avuto altre... Consiglierei Pietro Polli Charmè, che è un psicologo dell'età evolutiva. Basta mettersi d'accordo se dobbiamo fidarci della magistratura italiana, anche in questo caso, se i magistrati alla fine saranno tutti comunisti o comunque bisogna prendere una presa di posizione. Vedete. Una delle magistrate che ha detto alla Zanzara è la fidanzata di Albertini, non il calciatore. Non il calciatore, il sindaco, sempre no. Era la ex, è stata la fidanzata di Gabriele Albertini. E dice che votava PDL. No, però ha detto che è una persona, una donna squisita, una madre esemplare. E che votava PDL. Infatti Berlusconi ha subito risposto: vabbè, ma era in minoranza, le altre erano due. È un lottatore, stasera lo vedremo da Santoro. Elisabetta Fusconi qui in redazione ha detto: ci sarebbe una cosa da comprare, patatine, popcorn, e proiettarlo al cinema. Santoro come Godzilla verso... Vi ricordate quella cosa lì? Santoro contro Berlusconi, Berlusconi verso Santoro. Non so chi dei due è Godzilla, King Kong, cioè questi grandi film sui duelli. Vabbè, vi devo salutare, vi ringrazio Vladimir Luxuria per essere stata con noi, e Paolo Del Debbio, ovviamente. Grazie anche quinta colonna su Rete4 il lunedì sera. E che dire, andiamo a sentire il numero della segreteria che stava già partendo, e andiamo a sentire il giornale radio, poi ci ritroviamo alle 7:15. Volete dire la vostra? 02 4652 4492.

pregiudizio. E questo non possiamo consentirlo nell'interesse dei cittadini, perché i cittadini devono sapere che il giudice è terzo, che non va qualificato e che ha applicato correttamente la legge. Senta, non è la prima volta però che Silvio Berlusconi attacca i giudici, quindi voglio dire, poi comunisti è una cosa che dal 94 ha detto varie e svariate volte. Perché questa volta avete, e anche lei in prima persona, firmato invece una nota molto molto dura per replicare a questo? Ma guardi, la nota che è stata firmata dal Presidente della Corte d'Appello e da me tende a dare solidarietà ai giudici che sono stati attaccati con queste qualificazioni, come ho detto, e tende soprattutto a tranquillizzare l'opinione pubblica che non è la qualificazione che fa la giurisdizione positiva o negativa nei confronti delle parti. È solo per questo che siamo intervenuti, e peraltro ricordando la raccomandazione del Consiglio dei Ministri d'Europa, che appunto hanno ribadito che non si devono usare frasi o dileggiare la magistratura, e i giudizi debbono essere criticati. Non dico possono, debbono essere criticati, perché questa è la garanzia dell'indipendenza e dell'autonomia dei giudici, ma criticare la decisione non significa delegittimare i giudici. A proposito della decisione, non entriamo ovviamente nei termini tecnici, però effettivamente 100.000 euro al giorno è una cifra che appare anche per una persona molto benestante come Silvio Berlusconi una cifra che sembra spropositata al cittadino comune. Io non intendo assolutamente entrare nel merito, ricordo soltanto che i giudici applicano criteri legislativi, cioè interpretano norme che hanno individuato i criteri in base ai quali bisogna valutare le situazioni nelle separazioni tra coniugi dal punto di vista economico. Lei non crede che in linea di principio nelle cause di separazione, al di là della vicenda Berlusconi, il fatto che ci sia un giudice donna piuttosto che un giudice uomo possa in qualche modo influire, anche avere non so, un giudice donna, un occhio di riguardo più per la madre, soprattutto se ci sono dei figli in casi di separazione, un giudice uomo più per il padre? Cioè si riesce a non avere nessuna convinzione di genere? Ma la prego, non è assolutamente tollerabile un ragionamento di questo genere. Tra l'altro ci riporta a antiche polemiche dell'epoca in cui si parlava dell'ingresso in magistratura delle donne come di una calamità che avrebbe modificato in negativo l'attività giudiziaria. Ma di che cosa stiamo parlando? La professionalità, la capacità di giudicare tenendo conto delle complesse situazioni che vengono dinanzi ai giudici e la base sulla quale si fonda la presenza di questo, di quel giudice in questo, in quel determinato processo. Respingo con assoluta fermezza ogni riferimento al genere per quanto riguarda il senso delle decisioni che si prendono. Ci sono in assoluto molti padri che fanno, anche associazioni di padri separati che fanno questo tipo di accusa, dire, e molti padri si ritrovano in ristrettezze economiche perché appunto storicamente c'è stato forse in precedenza più uno sbilanciamento nel favorire le donne nelle cause di separazione. Guardi, questo è un antico argomento al quale più volte si è risposto, dipende dalle singole situazioni. Certo, la separazione è un trauma, è un lutto che è difficile peraltro da elaborare, soprattutto quando vi sono i figli, ma è anche dal punto di vista economico. Del resto, nell'ultimo bilancio di responsabilità sociale che ho fatto abbiamo dimostrato appunto che proprio i settori in crisi sono quelli delle separazioni tra i coniugi, quelli delle esecuzioni e quelle dei fallimenti. Tutto questo messo insieme dimostra che evidentemente si tratta di situazioni fortemente traumatiche. E di tutta evidenza che se una coppia si separa e vi sono anche dei figli minorenni, l'onere a carico del genitore non affidatario permanente, perché in realtà l'affidamento è condiviso, del figlio sarà un onere che graverà sulla singola persona, ed è diverso che gravi sulla singola persona oppure che gravi su una situazione familiare nella quale tutti contribuiscono al bilancio familiare. Presidente Pomodoro, ci spieghi tecnicamente cosa può avvenire, perché Silvio Berlusconi ha detto che ci sarà l'appello, cioè questa decisione di 100.000 euro non è definitiva. Tecnicamente potrebbe succedere di tutto anche in appello, cioè che possa essere anche... I giudizi di primo grado, quale che sia la persona che è in, o comunque il giudizio che è predicato in discussione, sono tutti appellabili. È evidente che se vi sono degli errori potranno essere corretti dal giudice di secondo grado, e quindi mi sembra del tutto normale, del tutto corretto che ove questa decisione venga considerata non adeguata da chi si è visto addebitare queste somme o altre decisioni del giudice, possa ricorrere al corte d'appello. Lei le tre giudici ha avuto modo di incrociarle ieri in tribunale, di sentirle dopo questo giudizio dato da Silvio Berlusconi? Ma guardi, io non intendo assolutamente fare gossip di nessun genere, dico semplicemente che il Presidente della Corte d'Appello ed io abbiamo ritenuto nostro dovere intervenire perché non si delegittimi ulteriormente la magistratura, poi in particolare in un settore così delicato come quello della famiglia. Non dimentichi che io sono stata Presidente del Tribunale per i minorenni, certo, di Milano per 14 anni e ho ancora le ferite di tutte le polemiche che riguardano situazioni nelle quali evidentemente contendendosi di questioni fondamentali ci possono essere opinioni o modi di vedere le cose diverse, ma le assicuro che ciò che conta è appunto la capacità del giudice di essere terzo e di saper giudicare. Guardi che giudicare è un'arte che mette in discussione la nostra capacità di comprendere le situazioni e di intervenire su quelle situazioni secondo le regole del nostro ordinamento e della nostra legislazione. E questo è stato fatto in questo caso come in tutti gli altri casi. Se abbiamo sbagliato, la Corte d'Appello riparerà. Un'ultima cosa, le faccio questa domanda che esula dal discorso, perché io voglio ricordare, ieri c'è stata una decisione della Commissione Antimafia a livello nazionale sulla trattativa Stato-Mafia, nella quale si parla di non di trattativa ma di intese. Le faccio questa domanda perché, se non sbaglio, lei nel 93 era capo di gabinetto dell'allora ministro della giustizia Martelli. Che ne pensa su questa annosa questione, vicenda molto complessa, della trattativa Stato-Mafia? Ci fu, secondo lei, a qualche livello, e a che livello, se ci fu, una trattativa tra Cosa Nostra e pezzi dello Stato in quegli anni? Guardi, io sono stata in quegli anni, in quel periodo particolare, io ero capo di gabinetto del ministro Conso, che aveva sostituito Martelli, sì, e poi però sono andata via da Milano, da Roma, per ritornare a Milano a presiedere il Tribunale per i minorenni. Posso dire che la fermezza dei ministri che si sono susseguiti in relazione al 416 bis e alle situazioni sulla criminalità mafiosa è testimonianza che mi sento di rendere. Per tutto il resto proprio perché io peraltro sono stata in un periodo di transizione, non credo di poter aggiungere o di dover aggiungere altro. Intanto la ringrazio, buona giornata, grazie per essere stata con noi, il Presidente del Tribunale di Milano, Livia Pomodoro, per parlare anche di questa vicenda, insomma le tre giudichesse femministe e comuniste di Silvio Berlusconi nei confronti dei tre giudici donna che hanno deciso questi alimenti sicuramente molto corposi. 100.000 euro al giorno, la cifra reale è questa, 100.000 euro al giorno per Veronica. Veronica Lario, anche se poi ovviamente sarà appellabile, come ci ha detto Olivia Pomodoro, questa decisione di primo grado. In ogni caso ci fermiamo, poi se volete 800 24 00 24, parleremo tra poco di una sorta puntata bis anche di quello che è successo ieri in Lombardia, perché ci concentreremo sulla Sicilia, dove scrivono i giornali 4 ex capogruppo della regione Sicilia sono in procinto di essere iscritti al registro degli indagati. L'ipotesi di reato è sempre la stessa: peculato, cioè tradotto, utilizzo di soldi nostri per fatti loro. Questa è l'accusa, l'ipotesi di accusa. Ne parleremo tra pochissimo anche col vostro contributo. Chiamateci 800 24 00 24. 24 mattino. Allora, l'ipotesi d'accusa è quella, peculato, secondo alcuni quotidiani di informazione siciliani, quattro ex capogruppo della regione Sicilia potrebbero essere iscritti nel registro degli indagati a breve per ipotesi peculato, cioè aver utilizzato fondi a disposizione del Parlamento, perché sono deputati in Sicilia, vanno chiamati così, siciliano, per scopi non strettamente istituzionali. 800 24 00 24, se volete intervenire in diretta. Ieri abbiamo parlato del caso Lombardia, oggi appunto della Sicilia. Voglio salutare Rudy Maira, buongiorno. Salve, buongiorno. Buongiorno, lei è segretario regionale del Cantiere Popolare, giusto? Popolari d'Italia, sì. Domani, che è una, perfetto, formazione un po' lunga. È stato capogruppo appunto nella precedente legislatura. Mi faccia salutare anche Emanuele Lauria, collega di Repubblica che ritroviamo. Buongiorno Emanuele, benvenuto. Buongiorno Alessandro, buongiorno. Allora, tra l'altro io devo dire una cosa, abbiamo cercato anche un esponente del Movimento 5 Stelle, perché tra l'altro è una notizia importante, ieri hanno restituito parte degli stipendi, il 70% dello stipendio, ma ci hanno fatto sapere che non gli va di intervenire, ecco, così la diamo così, cioè nessuno, non hanno piacere di intervenire. Ci spiace, perché tra l'altro anche in passato anche il capogruppo cancelliere è stato nostro ospite. Comunque Rudy Maira, lei è accusato, insomma i giornali parlano di una Audi, una macchina, credo, una macchina presa in leasing, si tratta di questo? Sì, sì. Che macchina è? È un Audi A6, come un po' tutte le auto che gli organi istituzionali e politici siciliani utilizzano. Perché, in che senso? Perché c'è un'auto blu? La cosiddetta auto blu, a prescindere dal colore. L'auto blu. E cioè quest'auto l'avete presa per il gruppo? Sì. E perché? E a che serviva? Allora, io non so se è giusto o è sbagliato. In questo momento non mi pongo un problema di merito, rispetto merito. Ma è sempre invalso in tutti i gruppi, penso non per i grillini che sono appena arrivati, ma intanto tutti i gruppi conciliari, assemblea per il siciliano, hanno da sempre usufruito di un'autovettura per il loro presidente di gruppo e ove occorre anche per gli altri deputati. Quindi quando sono stato eletto presidente del gruppo, sì, anche lei, mi sono adeguato, devo dire, non mi sono posto il problema se era giusto o meno, perché ci sono anche degli atti interni dell'Assemblea Regionale Siciliana che questo discorso, bene o male, lo ammetto. Io non mi sono posto il problema, questa autovettura mi è servita. E perché, onorevole Maira? Cioè, voglio dire, dice lei, era invalso, era consuetudine che tutti i gruppi facessero così, storicamente, e quindi lo fanno ancora, a parte il Movimento 5 Stelle, dice, quindi che non perché... so come si è comportato, e comunque gli altri gruppi lo fanno ancora. E quindi lei dice, perché io dovevo fare, come dire... Ma non perché io non mi sono promesso, perché io dovevo farlo in maniera diversa, obiettivamente. Autovettura per un presidente di gruppo assembleare è una cosa che serve, perché io ci ho girato tutta la Sicilia costantemente per la funzione che svolgevo, e venivo chiamato un po' dovunque. Per la quale poteva anche usare una macchina privata, però, per questo. Sì, però io le mie autovetture private ce le ho, io anche un parco consistente, quindi non era sostitutivo non era sostitutiva l'Audi di una mia esigenza personale. Io scusi, non è che vogliamo... Non la guidavo io, la macchina. Vogliamo farci poi... c'era l'autista anche. Sono impiegato del gruppo. Cioè un impiegato del gruppo, che era, quindi c'era un'auto in leasing che era a disposizione del capogruppo, cioè lei e del gruppo, e con un impiegato del gruppo che guidava. Non vogliamo farci i fatti suoi, ma siccome lei ha detto un parco consistente, quante macchine ha? Scusi. Io avevo a disposizione 4 autovetture. 4, quella del gruppo. 4 autovetture più quella del gruppo. Tra l'altro si parla anche invece per Giulia Adamo dell'acquisto di un gioiello, di un regalo di nozze per l'onorevole Cracolici, che è l'unico dei 4 che è anche attualmente in assemblea regionale, e tra l'altro stiamo cercando di contattarlo ma so che è in nave, quindi il cellulare per ora non prende. Emanuele Lauria, intanto Rudy Maira dice era consuetudine, quindi non si è neanche posto il problema. Forse questo è invece il problema che si pongono gli italiani, non so Lauria se sei d'accordo, cioè che molti politici non si pongono neanche il problema delle consuetudini invalse che ci sono e che forse dovrebbero cambiare, o no Emanuele? Sì, sì, devo dire che con... Scusate, ho un rimbombo che mi dà un po' fastidio. Vediamo di sistemarlo. Allora, no, dico... Devo dire che con ammirevole anche sincerità, insomma, Maira ha centrato il cuore del problema, cioè il fatto di come dire, non essersi posto il problema. E d'altronde, come dice lui, insomma, è stata sempre consuetudine, diciamo, dell'assemblea e dei deputati dell'assemblea regionale, quindi comportarsi anche in un certo modo. Il fatto è che quest'anno, per la prima volta nella storia dell'assemblea, diciamo, un'inchiesta giudiziaria sostanzialmente è entrata dentro il palazzo dei Normanni, ecco. Tieni conto che anche la prima volta c'è stato anche un dibattito su questo, che proprio degli agenti della Guardia di Finanza hanno varcato il portone praticamente, ecco, del palazzo per andare a... E che è? Cioè che c'erano le guarentigie, non lo so, che perché sì, in tutte quelle. Esattamente quello. Le guarentigie dell'autonomia siciliana. Pensa che l'ex presidente dell'ARSI si è posto a lungo il problema se far entrare, entrare o meno. Cioè quelli con i finanzieri che bussavano, aprite il portone, boom, boom. E alla boom. Fine si è giunta a una soluzione, voglio dire, abbastanza... Cioè si sono trovati sul piazzale, non lo so, che hanno fatto? Sì, no, trovo di dire, vabbè, voi entrate, ma soltanto perché ve lo diciamo noi, ecco, questo la concessione. È stato, diciamo, la conclusione. Beh, ora, cioè questo no, è uno degli aspetti dell'immagine dell'autonomia siciliana, perché in tutti gli altri consigli regionali sono entrati normalmente a Guardia di Finanza. Sì, infatti, ora il tema è chiaramente discusso anche sul piano giuridico, però ecco, questo è un po' il segnale di quello che è successo. Adesso io davvero non ho gli elementi per dire se e come si concluderà questa inchiesta. Sì. La Guardia di Finanza è convinta che queste spese allo Stato al momento, insomma, non sono giustificate, però è ovvio che l'istruttore, insomma, l'inchiesta davanti. Il fatto è che l'assemblea regionale ha disposto, almeno fino all'anno scorso, di somme relative a trasferimenti ai gruppi che non hanno uguali in Italia. Quante sono? E sono 12 milioni di euro. 12 milioni di euro di trasferimenti a tutti i gruppi. 12 non so, milioni di euro. Non so quanto aveva il PID piuttosto che quanto avesse il PD in questo Vediamo, momento. Vediamo, quanto aveva Maira di disposizione all'anno di fondi per il gruppo? Allora, l'accredito che l'assemblea regionale fa ai gruppi è collegato in proporzione al numero dei deputati iscritti al gruppo. Sì, certo. Questo gruppo ha variato di numeri di deputati e comunque venivano versati 3.200 euro al mese per ogni deputato. 3.200 euro al mese, oltre ovviamente allo stipendio. Sì, ma poi andavano tutto quindi attività politiche e sociali del gruppo. Per le attività politiche e sociali. Senta, ma onorevole Maira, ma lei si rende conto che gli italiani non accettano più questo tipo di questioni? Allora, io mi rendo perfettamente conto, però... Cioè, perché anche i discorsi di dire era invalso quest'uso... Dobbiamo retrodatare l'evento, perché questo discorso è avvenuto... Retrodatiamolo, a dove? È venuto nel tempo quando tutte queste preoccupazioni... È giusto, e dirò anche qualcosa dopo sulla giustezza delle preoccupazioni, non esistevano, esistono da un anno a questa parte. Sulla giustezza cosa vuole dire? Cioè non sono giuste queste preoccupazioni? altro che se sono giusti. Tenga presente, io non lo dico per controbilanciare i fatti di oggi, ma per esempio il nostro gruppo, quando sono stato presidente, adesso non lo sono più, senza alcuna richiesta o senza alcuna imposizione da parte degli organi dell'Assemblea Regionale Siciliana, ha annullato quella che è un'altra prassi dell'Assemblea Regionale Siciliana, ma credo anche di tutte le assemblee elettive, che è quella di corrispondere ai capigruppo e ai vice capigruppo delle indennità per il lavoro in più, perché il lavoro in più obiettivamente il capogruppo ce l'ha, e per la funzione appunto di capogruppo, di presidente del gruppo e di vicepresidente del gruppo. E noi queste indennità le abbiamo eliminate senza che nessuno ce lo chiedesse. Piccolo contributo al risparmio. Piccolissimo contributo al risparmio, però sa indicare che sotto l'aspetto della consapevolezza e della coscienza che andavano ridotti alcuni costi, non l'abbiamo avuto. Ma non lo dico per prendere merito. No, no, ma scusi, è però come storia, come cronaca. No, no, ma certo, però onorevole Mario dice abbiamo avuto appunto coscienza di toglierci alcune cose, però lei stesso dice io non mi sono posto il problema, no, quando c'era da capogruppo non mi sono posto il problema e c'era l'utilizzo di un'auto come c'è ora anche a disposizione di tutti, non mi sono posto il problema e l'ho fatto. È questa la questione che gli italiani capiscono veramente poco, cioè il fatto che sia un privilegio fare il politico, per cui uno non si pone il problema, ha a disposizione una cosa e la fa. Ora, io non vorrei sembrare tra coloro i quali difendono i privilegi, perché intellettualmente non è così per quello che mi riguarda, però un'autovettura a disposizione del gruppo e principalmente del presidente del gruppo, che se ne possa dire, ha una sua funzione. Ma quale funzione, mi scusi? Cioè, la funzione di andare giro, cioè lei ha una funzione, lei ha un compito che è quello di girare per la Sicilia, ma non è che è obbligatorio che si faccia con un'auto blu con un dipendente che la scarrozza per la Sicilia, cioè potrebbe farlo anche autonomamente. Certo, lo potrei fare anche guidando io, però quando per esempio da una riunione svolta a Ragusa, che è esattamente l'opposto di Palermo, che si protrae sino alle ore piccole notturne, io debbo ritornare, io come tutti gli altri presidenti di gruppo, magari alle 2 alle 3 di notte, non è una cosa semplice da dire ti metti al volante e te ne torni a casa tua, perché non lo è obiettivamente. Cioè, io capisco tutte le esigenze di risparmio di questo mondo, ritengo che anche questo aspetto vada regolamentato con equità e con giustizia, però alcune ragioni di sicurezza, obiettivamente ci sono. Vabbè, un collaboratore, cioè un autista pagato da, non so, un dipendente che è appunto un autista, una macchina con conducente pagata di volta in volta con i soldi del gruppo e si risolve. Comunque, insomma, questa è la sua opinione. Prima di tornare da Emanuele Lauria, vorrei andare a Salvatore dalla provincia di Pistoia. Ci ha chiamato all'800240024. Salvatore, buongiorno. Buongiorno, salve. Dica. Ma senta, io sinceramente quello che ormai sta diventando un mal costume diffuso, se ne parla con un'estrema quasi rassegnazione da parte dei cittadini, sentire quasi ogni giorno costantemente, ma io dico sinceramente ci sono delle soluzioni di una semplicità immane. Per esempio? Per esempio quella di portare nell'assise massimo, quindi nei vari consessi provinciali, regionali, comunali, voce per voce, capitolo per capitolo di quelli che sono i rimborsi, quindi all'atere di quello che potrebbe essere i vari bilanci che poi magari troviamo nascosti nelle voci dei bilanci. Ma guarda che sono citati, cioè nel senso sono detti quanti sono i trasferimenti dei gruppi ai gruppi. Ma debbono essere approvati dall'assise, cioè qual è lo scopo? Lo scopo dei cioè, lei dice non prima dare i soldi, ma prima sì, ci date gli scontrini sì, e poi li approviamo, sì, cioè, a posteriori. Assolutamente sì, assolutamente sì. Ok, io faccio una spesa tipo un Audi, e tipo poi te la rimborso. Un computer, tipo qualsiasi cosa. Bene, ok, io mi assumo la responsabilità se effettivamente... Ma guardi, Salvatore, sono... Salvatore, io credo, devo andare in informazione sul traffico, credo che sia fatta a posteriori o che sia fatta dando i soldi prima, anche se uno dice prendo un Audi, si troverebbe il modo per giustificare nel sistema ormai perverso degli sprechi della pubblica amministrazione, si troverebbe il modo di giustificare tutto. Quindi ritorno a quello che ho proposto ieri, ma non passerà mai. La soluzione semplicissima è prendere un compasso, puntare il compasso su un foglio, fare una bella O come faceva Giotto, magari senza compasso, quella O è uno zero e zero dovrebbe essere il numero di soldi che vengono trasferiti ai gruppi. Zero il traffico. 8:47 minuti, siamo con Rudy Maira che è segretario regionale del Cantiere Popolare d'Italia Domani in Regione Sicilia, è uno dei capogruppo, ex capogruppo che è stato accusato, insomma è accusato, adesso gli chiederò anche tra l'altro com'è la questione dell'indagine, e siamo con Emanuele Lauria di Repubblica. Emanuele, intanto vogliamo parlare della questione di Grillo. Faccio a te questa domanda, perché tu sei entrato nel mirino del Movimento 5 Stelle, perché hai scritto su Repubblica restituire lo stipendio è quasi impossibile, è difficile. Il primo stipendio che è arrivato era uno stipendio pieno anche a quelli del Movimento 5 Stelle. Sì. Ti hanno massacrato, ieri, ti hanno massacrato. Ma devo dire che... Il giornalista da rieducare, eccolo qua. Sono preso, diciamo, come dire, la mia dose di olio di ricino. No, ma il problema comunque, ieri credo finalmente sia stato risolto, insomma, sì. I grillini hanno fatto una conferenza stampa per annunciare che insomma restituiscono queste somme. Restituiscono il 70% dei soldi, perché loro hanno detto noi ci teniamo 2.500 euro e il resto lo restituiamo. Sì, invece vero, più le spese e il resto lo restituiamo. Per carità, un gesto assolutamente lodevole, dovevano e potevano farlo prima, quando ho scritto che non lo stavano ancora facendo. Insomma, malgrado la campagna elettorale, si sono arrabbiati. Su quello che dice Maira, cioè la questione dei rimborsi, è utopia pensare che possano essere zero, è demagogia, oppure è giusto che ci siano anche delle spese da sostenere? No, è giusto che ci siano spese da sostenere, però non è demagogia, anche perché bisogna inquadrare un po' la situazione siciliana anche nel quadro nazionale. Il decreto Monti, approvato a settembre e poi attraverso un iter che è passato anche alla conferenza delle regioni, è stato poi recepito dalle varie regioni, non è stato invece recepito in Sicilia. Cioè cosa significa in soldoni? In tutta Italia in questo momento, tranne che le regioni a statuto speciale, i contributi ai gruppi sono stati drasticamente ridotti. Maria prima accennava a questo contributo che tuttora è 3.200 euro. Esatto, cioè in Sicilia euro. È rimasto così, non hanno recepito, avete capito italiani, non ha, come nel tutte le regioni statuto speciale, non hanno recepito. Esatto. E per farti capire la differenza, ecco la cifra in Sicilia è di 3.200 euro al mese per ogni deputato. Sì. Nelle altre regioni d'Italia è diventato di 5.000 euro a deputato, ma ogni anno. Ah, quindi invece che 30.000, anzi di più, 3 per 12, sì, no, 3, 3. Per il conto, 3, 2 per 12, 36.000, 36.000, sì, certo, no, poi per 90, ogni, per ogni deputato, 90, 90 certo, certo, 36.000 insomma, rotti per ogni deputato in Sicilia, invece 5.000 in tutto il resto d'Italia. Esattamente, è una differenza notevolissima. Ste guarentigie. La Sicilia mantiene questo stato. Devo dire che il nuovo presidente dell'ARSI dice che insomma, l'assemblea deve adeguarsi e dovrà farlo nei prossimi mesi, però nei fatti questo non avviene, serve una legge di recepimento da parte dell'assemblea regionale e non la fanno. Saranno chi pensa, mi immagino la scena come la Guardia di Finanza con i messi di Palazzo Chigi che portano il decreto, boom boom boom, bussano al portone, no non vi apriamo, non possiamo far entrare i messi di Palazzo Chigi se non lo decidiamo noi. Marco da Frosinone, buongiorno. Buongiorno. Ma, dica. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Dica. Molto semplicemente, è imbarazzante sentire l'imbarazzo delle persone che rappresentano i cittadini italiani e le istituzioni dovessi giustificare sulle malefatte fatte nel passato. Ma a parte questo, io ho una osservazione molto semplice. Quando il senso civico di una persona e di chi ci rappresenta le istituzioni diminuisce, e gioco forza occorre una norma che si sostituisce a questa mancanza di senso civico. Che tenti di rialzarlo. Molto semplicemente, basta che si dica questa spesa si può fare, questa spesa non si può fare. Punto. Ma Marco, non è ancora più semplice se si dicesse il gruppo è zero. Certo, che poi lo devono recepire, hanno l'autonomia. La cosa drammatica è che i gruppi recepiranno quello che ha detto come normativa il governo centrale, ma troveranno un altro sotterfugio, come è stato fatto sul finanziamento dei partiti, per dare i soldi disponibili ai deputati e ai consiglieri regionali per spendere. In altra forma. Troveranno un'altra forma, non ci prendiamo in giro. Purtroppo, quando c'è un senso civico che manca purtroppo, ma le dico l'ultima, no? Purtroppo sono la Regione Lazio, sì. In una provincia che non ha fatto brillare, no, proprio... Frosinone, lei conosce Fiorito? Sorvoliamo queste cose, no? Però nella Regione Lazio ci sono partiti che hanno detto i consiglieri uscenti non possono essere ricandidati alla regione. Ci ritroviamo candidati ed eletti, perché sono in posizioni elette, Parlamento e Senato. Vedi che hanno mantenuto la parola, il Consiglio regionale non ci sono. Marco, però aspetti, ma che sfogo, va benissimo, grazie per il suo parere, Marco. Vorrei tornare dall'onorevole Rudy Maira. Ma lei, Maira, è indagato al momento o no? Sta per arrivare. Giornali, sulle cose giornalistiche, che c'è questo indizio della Guardia di Finanza. È tranquillo comunque, dovesse essere indagato per peculato. Allora, io sono tranquillissimo per un motivo semplice. Io ho sempre sostenuto in aula, pubblicamente, sui giornali, e credo che Emanuele Lauria me ne possa dare atto, che chi fa politica, l'uomo pubblico, deve costantemente essere controllato a 360 gradi. Lapsus freudiano. Indagato nel senso di controllato, non indagato. Ecco, no, l'indagato è un passo avanti rispetto al controllato, ma anche indagato va benissimo. La verità processuale poi si riscontra con le indagini e con essere indagato proprio dalla procura, che quindi c'è un'ipotesi di reato, va benissimo. Sì, va benissimo, tu ti difendi nel processo. E nel confronto, anche perché sull'interpretazione delle norme ci possono essere punti di vista, e anche perché nella particolarissima legislazione amministrativa e costituzionale delle assemblee ci possono anche essere vuoti di conoscenza da parte di tutti, e quindi è giusto che il politico venga indagato se ce ne sono le condizioni, e si difende, che se ne dia pubblicità. Io non contesto nemmeno ma è chiaro. Notizia che perfino ha dato Emanuele Lauria, ha fatto il suo lavoro e il suo dovere. Io vorrei fare un passo indietro sulla proposta zero. Il problema non è questo, perché può sembrare strumentale, perché i costi ovviamente ci sono. Ma c'è lo stipendio, avete lo stipendio. Aspetti, quello è un altro discorso, perché noi parliamo di attività politica e sociale dei gruppi. Sì. Io sostituirei al contributo, portandolo a zero, se le assemblee legislative fornissero servizi. Si fermi qui, però approfondiremo. Intanto vi ringrazio, mi devo fermare, se no sforo. Grazie a tutti, ci ritroviamo domani alle 6:30. Alessandro Milan è un ottimo, eccellente rimedio contro lo stress e le gastriti da politica. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate,